Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Non sarà facile stasera resistere all'emozione, direi alla commozione, quando allo stadio Franchi di Firenze sbucherà dal tunnel la carrozzina di Stefano Borgonovo, sospinta da Roberto Baggio. 20.000 biglietti già venduti, la diretta di Sky Sport 1 dalle 20.30 alla Nazionale di Lippi, schierata a gran completo in tribuna, visto che è radunata a Coverciano. E in campo Fiorentina e Milan, con due distinte formazioni, una attuale, una di vecchie glorie, dei tempi per l'appunto di Stefano Borgonovo e in qualche caso persino prima. Mai dato una formazione a questi microfoni, ma mi pare giusto invece elencare tutti i partecipanti. Ecco, questa mi sembra forse la parola più indicata a questa festa di stasera, questa festa di solidarietà umana e sportiva per Borgonovo e per tutti gli ex atleti colpiti, e non soltanto gli ex atleti colpiti da questo male, la SLA, di cui si continuano a cercare le origini. L'incasso di stasera, i 150.000 euro già stanziati dalla federazione sul prossimo incasso della partita della Nazionale a Lecce, sono appunto finalizzati a indagare sempre più, a permettere una ricerca sempre più approfondita per questo flagello. Vi dicevo che la Fiorentina nella prima partita, quella diciamo di attuale, giocherà con ha convocato Frei, Zauri, Da Costa, Dainelli, Pasquale, Donadel, Felipe, Melo, Almiron, Semioli, Pazzini e Santana, dovrebbero giocare questi 11. Il Milan dovrebbe giocare con Dida, Antonini, Darmian, Maldini, Albertazzi, Cardassio, Emerson, Ambrosini, Sedos, Ronaldinho e Viuduz. E poi tra le vecchie glorie ci sono Roberto Baggio, vi dicevo, Antonioni, che ha già annunciato a Baggio: non appena ti sfilerai dal campo mi passerai anche la fascia da capitano. Banchelli, Battistini, questo tra i fiorentini, e Bosco, Branca, Buso, Calisti, Dall'Oglio, Di Chiara, Faccenda, Pellegrini, Pellicanò, Pin, Pioli, Fuser, Gelsi, Iachini, Lacatus, Maiellaro, Malusci, Mannini, Mareggini, Mattei, Masigno, Nappi, Orlando, Pruzzo, Salvatori, Carobbi e Terim, con Prandelli come allenatore. Sembra un elenco sterile, invece è un elenco di persone, di colleghi che sono accorsi a questo appello. Per il Milan, Albertini, Ancelotti in campo, Baresi, Carobbi, Colombo, Costacurta, Donadoni, Evani, Filippo Galli, Giovanni Galli, Gullit, Lantignotti, Massaro, Pazzagli, Salvatori, Simone, Stroppa, Tassotti, con Sacchi in panchina nella seconda partita delle vecchie glorie. In apertura di questa puntata rimane la Juventus, perché è la squadra e la società sotto i riflettori del momento. Perché? Ma innanzitutto per un presente difficile, reso ancora più complicato, l'avete sentito ieri, dalle assenze di Buffon e Camoranesi almeno per l'intero mese di ottobre, Buffon forse anche oltre, e per un futuro a medio e anche a lungo termine con qualche punto interrogativo. Faccio un esempio: ieri si parlava di una pre-prenotazione per Prandelli, che d'altra parte ricorre per la panchina bianconera ormai per la terza o quarta volta. Adesso dall'Inghilterra rimbalza la voce di Rafa Benitez, che sta andando benissimo con il Liverpool ma non è soddisfatto del rapporto con l'attuale proprietà e quindi potrebbe partire per destinazione Torino nella prossima stagione. Per la verità la fonte è il Sun, quindi non proprio una Bibbia. Gli interventi sul mercato di gennaio caldeggiati dai quotidiani sportivi, magari anche come alibi per ricominciare con la sarabanda di 3-4 acquisti al giorno da strillare in prima pagina. C'è un'intervista ai microfoni di Sky dell'amministratore delegato Blanc, ascoltiamola. Dovrebbe essere pronta. L'allenatore non si cambia, la fiducia a Ranieri è totale, come l'ha detto il presidente Coboli da domenica. Quindi lo confermo al 100%, è stato scelto lui per portare avanti un progetto, questo progetto va avanti. Quindi con lui, con il suo staff, con il staff medicale, analizziamo bene questa situazione per cercare questi piccoli soluzioni in più che devono fare che la Juve torna a essere la Juve che abbiamo visto a fine agosto. Non sono stati dati ultimatum. Arrivare a fine stagione, ancora un contratto per una stagione di più. Noi andiamo su lungo termine. Vogliamo avere una situazione stabile con il staff tecnico, con l'allenatore, con tutta la struttura della società, perché pensiamo che un lavoro professionale, pensato bene, portato avanti con serietà e professionalità, è l'unica risposta a dare a risultati non ottimi in queste ultime tre partite. Intervista che Sky Sport ha passato da poco. Con Jean-Claude Blanc aveva parlato a lungo a quattro occhi qualche giorno fa Luca Veronese del Sole 24 Ore, che è qua con noi. Buongiorno Luca. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Tu ci hai parlato, la tua intervista è apparsa domenica sul Sole e quindi questo significa che ci hai parlato prima. Allora, quanto riconosci di questa impostazione rispetto alle cose che Blanc aveva detto a te dopo il Palermo? Effettivamente avevo parlato con l'amministratore delegato della Juve prima della sconfitta contro il Palermo, quindi potevano in realtà le cose essere un po' diverse. E nella realtà, come dici tu, la linea è quella, la linea è stata confermata ai microfoni di Sky, è stata quella dopo la sconfitta e dopo del resto i pareggi precedenti che non erano poi stati così esaltanti, e è stata quella in tutta la chiacchierata che ho avuto in un pomeriggio intero con Blanca a Torino nella sede della Juventus nel suo ufficio. In un ufficio in cui mi ha molto colpito, no? Che stia seduto, come hai scritto, su una poltrona bianconera coperta con una maglia da gioco. Com'è sta immaginazione? Che strana. In effetti mi ha colpito entrando che appunto Blanc sta seduto su questa poltrona da ufficio abbastanza imponente, come si addice a un manager di livello, che però è rivestita proprio con una maglia, cioè non è che è bianconera la poltrona, proprio c'è una maglia infilata, calzata sopra alla poltrona, come si vede in qualche automobile un po' di quelle così andanti, diciamo, con le maglie del basket nelle automobili americane, queste cose. Lui ce l'ha lì e si siede con orgoglio sopra questa maglia bianconera con la scritta che dice Blanc sulle spalle. E questo significa che non solo per noi italiani, ma per esempio anche per i manager francesi. Ricordo che Jean-Claude Blanc arriva da esperienze che poi tu ricorderai, esperienze sportivo-amministrative di primissimo livello anche oltre Alpe. Dicevo che non solo per noi italiani si ritorna bambini in fondo un pochino, no? Quando si ha a che fare col calcio a qualunque livello. Certo, e stupisce anche, ma è in linea, che Blanc, che sembra freddo, no? Cioè, volendo guardare la dirigenza Juve, vediamo un Cobolli sempre infervorato, rosso in volto, che discute animatamente, e invece Blanc sembra freddo, poche parole, ha paura di sbilanciarsi, invece parlandoci di persona si nota che ha davvero molta passione, ha passione anche oltre che per il calcio, anche per il suo lavoro. Proprio voglio fare bene il manager nel calcio con passione, questo sembra, quando si parla con lui sembra dire. Senti, prima di cominciare con i resoconti, come sempre interlochiamo, no, con gli ascoltatori che scrivono, in particolare in questo caso, poi interverranno. Giovanni da Brescia dice: la Juve non esonera un allenatore dal 1936, qualcosa vorrà dire? Giovanni, la Juve non esonera un allenatore da tantissimo tempo, ma non proprio dal 36, era nel 69 che esonerò Carniglia, Luis Carniglia, ufficialmente. Se vogliamo non considerare, no Luca, il fatto che 10 anni fa, mi pare, al termine del primo ciclo Lippi, a metà stagione, Lippi si sbagliò a dire: se sono io il problema, non gli fecero finire la frase, se sono io il pro, e poi si dimise, insomma, quindi in una maniera un pochino più elegante. Abbiamo un minuto, poco più, prima del primo intervallo. Che cosa mettiamo in copertina, secondo te, tra i tanti temi che avete toccato? Il lungo periodo. Cioè, mi spiego, si parla di calciomercato, cambiare allenatore, progetto, lo stadio, ma tutto è legato al fatto che Blanc magari poi sbaglierà tutto, perderà la Juve, non lo so, magari nel calcio non funzionerà, ma lo sforzo è quello di guardare oltre, come dice lui, la partita di domenica, è per quello che la linea resta lo stesso. Certo. I soldi ci sono, non ci sono, a seconda di quello che poi andremo a fare. Non rivoluzioniamo tutto ogni settimana in base al risultato del calcio, che purtroppo però è importante. Sì, e arriveremo con calma, possiamo anche arrivarci subito, no? A strillarlo prima di questo intervallo. Questa pianificazione, questi nervi saldi, no? Questa politica del lungo respiro è principalmente in funzione di un obiettivo, che è quello dello stadio nuovo. Sì, lo stadio nuovo è l'obiettivo principale per dare solidità economica e riparare quindi la squadra dai problemi economici per farla pensare solo al campo, questa è l'idea, no? Sì. Dare una fonte certa, sicura, costante di ricavo, di modo che la squadra si mantenga da solo, ho le risorse per investire in nuovi giocatori e andare avanti. Questo fra 12 anni, quando lo stadio sarà già costruito, fra 2 anni, sì, e poi ripagato. Nel frattempo bisogna pagare, oltre che tutta la costruzione, quindi oltre 100 milioni di euro, il finanziamento ottenuto, quindi gli interessi e tutto il resto. E questo, dice Blanco, può tagliarci le gambe nel breve periodo invece. Non c'è dubbio, anche perché in genere si fa un po' di fatica quando ci si rivolge ai tifosi che si prendono una squadra nuova e si dice 3 anni per, no? In genere quella è la formula e quella è la durata. Se qua dici 12 e ti chiami Juventus è ovvio che c'è un problema strutturale. Eravamo alle prese con Luca Veronese del Sole 24 Ore nella decrittazione di una lunga intervista Blanca apparsa domenica sul Sole e poi aggiornata sia pure più frettolosamente da altre dichiarazioni di Blank nel frattempo. Potete ovviamente intervenire all'800 24 00 24, come siamo abituati a fare. Leggo nel tuo servizio che Blank, a proposito di questo stadio, ha parlato di un progetto da 105 milioni. Quindi, dato che tu dicevi che si pagherà in 12 anni, a quanto deve rinunciare la Juventus, sempre che le cose restino così, ogni anno per poter finanziare questo stadio? 105 milioni è una cifra alta, ma non è tantissimo per uno stadio, no? Pensiamo che in Inghilterra ne fanno da 150, il progetto Giraudo prevedeva 150 e oltre. Però è una somma significativa da assorbire nei bilanci, appunto, come dicevi tu. A fronte, pensiamo a quanto può costare prendere un campione, diciamo un buon giocatore, un ottimo giocatore, no? Non parliamo di quelli della Juve, ma un po' più di Poulsen, diciamo, un 20 milioni di euro, sì, con un contratto diciamo di 4 anni a 5 milioni netti di euro all'anno, lo sto facendo un po' così rapido, 10 milioni lordi, vuol dire che in 4-5 anni una società deve sostenere un costo di 50-60 milioni di euro. Lo stadio praticamente nel breve periodo, che vuol dire in 5-6-8 anni, leva la possibilità di prendere un campione di questo genere ogni anno. Da quando sarà ripagato invece darà, si stima, dai 30 ai 35 milioni di euro all'anno in più di entrate secche e sicure. E questa è la sfida che hanno messo in piedi. Rinunciare adesso, cercando in tutti i modi di parare i colpi, facendo ovviamente però dei campionati e delle coppe significative e dignitose, certo, anche più che dignitose negli obiettivi, e poi avere la forza per fare molto molto meglio in futuro. L'hanno fatto in pochi, in Italia nessuno, sì, è vero. All'estero forse l'Arsenal ci sta provando in modo molto simile, fra stadio e politica di campioni e giovani da mescolare assieme in campo, però davvero in Italia non ci ha provato nessuno. Sì, è vero, per qualche aspetto un'analogia c'è, perché l'Arsenal, va bene, lo stadio se l'è fatto, l'Arsenal non ha avuto questa ammazzata piombata a metà del cammino o all'inizio o alla fine di un certo cammino che ha avuto la Juventus, ma la politica dei giovani che la Juventus ha fatto sfruttando un vivaio, per la verità, costruito dalla gestione precedente, costruito in maniera eccellente, perché dal punto di vista tecnico nessuno ha mai potuto discutere il talento e la bravura di Moggi, qualche analogia c'è. È ovvio che mentre in Inghilterra ci si può permettere un po' di più, appunto, di chiedere pazienza, qui la pazienza finisce prima. Forse anche perché, e questo non so se ne hai parlato con Blank, qualche frasetta d'estate, qualche dichiarazione di obiettivi, da parte non necessariamente sua, anzi direi più del presidente più dell'allenatore, insomma, avevano forse un tantinello illuso dal punto di vista degli obiettivi, che non sono mica fuggiti, perché stiamo parlando della sesta giornata, ma che insomma sono evidentemente un po' più difficili da raggiungere. Certo, perché l'obiettivo del piano è quello di essere competitivi. Blank viene da altre esperienze nello sport, nel calcio a volte dicono che non c'entra tanto, non ci capisce tanto, ma sa benissimo che poi fra il terzo, addirittura fra il secondo e il primo posto nella Champions, per esempio, non c'è la differenza non la fa il piano di lungo periodo, ma la fanno gli eventi e la casualità anche. Certo, d'estate hai ragione tu, quando si parla di scudetto, si parla di andare forte in Europa, poi le aspettative sono alte da parte di tutti i tifosi e Blanc lo capisce bene. E la Juve, dal punto di vista economico e della solidità di quello che stanno facendo, non può permettersi di stare fuori dalla Champions, questo è evidente. Ecco, quindi diciamo che quando si fanno i discorsi, adesso al di là poi appunto di chi deve vendere copie e quindi deve strillare acquisti a ogni cosa, a che condizioni, cioè sotto quale soglia, mi pare di capire che hai già dato la risposta, la Juventus è pronta a intervenire più o meno pesantemente di nuovo sul mercato di gennaio, se ravvisasse il rischio di uscire dalla zona Champions. Esattamente, il campionato è molto strano quest'anno anche per il sorteggio, come hai più volte ricordato, certo, tu che ha mescolato le carte, però diciamo come l'anno scorso quando la Juve e i Ranieri si sono resi conto che c'era qualche problema per arrivare saldamente nelle prime quattro e quindi poi andare a fare i preliminari, avere ricavi molto più alti quest'anno, e dicevo come l'anno scorso hanno preso Sissoko in corsa in anticipo di un anno e quindi sobbarcandosi costi notevoli in un bilancio, io torno fra bilancio e campo, faccio questa sponda, certo. E quest'anno tutto lascia pensare che se a gennaio si trovassero davvero fuori dal quarto posto o molto in difficoltà, avrebbero una riserva per intervenire sul mercato. Penso che abbiano anche già qualche idea, che non credo corrisponda a Diego del Werder Bremen o a queste cose, fra l'altro ce l'hanno già in casa un po' di giocatori del genere. Di talento, certo. E, però penso che sia la difesa solida centrale e anche un centrale, se Poulsen dovesse fallire, di quel genere lì. C'è dubbio. Cioè, le reazioni che leggo da parte degli ascoltatori sono molto interessanti su questo piano decennale, no? Per esempio, se è un piano Marshall. Allora, per esempio, Fede da Alessandria, evidentemente Fede bianconera, è un diminutivo di Federico, ma dice: ma non ci si può in questi 10 anni legare a un socio minore sponsor per provare a giocarcela in questi anni, e cioè trovare appunto una soluzione di escamotage che preservi il progetto a lungo termine, ma allo stesso tempo che... Mentre invece Maurizio Robaldo, che evidentemente è di fede opposta, stracittadina, dice: quindi per 12 anni Gobbi boccheggia, no? Domanda, no? E mi sembra che ci sia un, come dire, un dubbio che non lui e tutto il popolo granata che non lo metterebbe troppo di cattivo umore. Il tentativo è proprio quello, prima dicevo la sfida, forse un termine troppo roboante, però il tentativo è quello, e l'hanno fatto, cioè quello di tenere il campo competitivo e lavorando sul lungo periodo dal punto di vista economico per essere poi ancora più competitivi sul campo, perché Blanc lo dice sempre, cioè il nostro, lui lo chiama core business, però chiamiamolo il nostro nocciolo, cioè sì, quello che facciamo è giocare a calcio, cioè la Juve è una squadra di calcio, non è una squadra fatta per fare gli utili, certo, una società che deve stare in borsa facendo bella figura. Se non vince nel campo abbiamo fallito tutto l'obiettivo. Quindi non è che tengono bene i conti perché sono bravi ragionieri, tengono bene i conti perché nel lungo periodo, lo ripeto purtroppo, pensano che così si andrà a vincere di più. E nel breve si sono protetti, è vero, con degli sponsor, la Juve in casa sulle maglie e una ottima politica di marketing con pochi nomi però che pagano molto, e l'altra cosa è un contratto, anche quello di 12 anni, guarda caso come e il tempo che sarà necessario per ripagare lo stadio, con questa società Sport 5 che ha anticipato 75 milioni dei 105 che serviranno per lo stadio, quindi il famoso nome, diritto di dare al nome di uno sponsor allo stadio è già stato pagato assieme alla prenotazione dei palchi, dei posti VIP e queste cose che ci saranno nello stadio nuovo. Capito. Senti Luca, sta venendo il sospetto che forse ti dobbiamo chiedere di fermarti magari anche oltre la sosta dell'intervallo di borsa tra poco, perché tra un minuto c'erano ancora un paio di domandine, se è possibile tecnicamente. E come no, certo. Perché su in redazione al sole, con l'aria che tira in questi giorni, insomma, c'è bisogno di menti e di braccia anche. Stavo leggendo, questo perché dicevo, perché c'è qualche messaggio interessante. Per esempio, un ascoltatore dice: ma quanta gente va ancora allo stadio? Forse mi sfugge qualcosa, no? A proposito di questa pianificazione. Un altro dice: sono milanista, Giuseppe da Milano, ma complimenti a questo piano industriale della Juventus da veri manager, altro che gli spendaccioni delle milanesi. Mi piaceva, no, dare spazio a queste a queste osservazioni, a questi rilievi, prima poi di tornare ad, a Blanchi ad un altro aspetto. Sì, allora sullo stadio vuoto è desolante, cioè, l'ho chiesto io testualmente, la domanda dell'ascoltatore l'ho girata a Blanchi in anticipo, cioè ma stiamo facendo uno stadio nuovo, ma lo stadio era vuoto a Torino anche per la Champions, il ritorno in Champions della Juve aveva gli spalti vuoti. E anche qui lui dice, ovviamente l'obiettivo prioritario è portare la gente allo stadio e stanno facendo un po' di cose. La cosa principale... Stanno facendo un po' di cose, non certamente 50 euro per la curva contro Real Madrid, direi. Questo sicuramente non ha aiutato, però... Però è anche vero che Real Madrid ti capita una volta ogni tanto. Esatto, l'obiettivo è quello di avere uno stadio nuovo, però a dimensione familiare. Sarà pronto fra 2 anni, massimo 40.000 posti, gli abbonati della Juve sono molti di meno. E piacevole da vivere tutta la giornata, questa è l'idea che hanno. Tanti messaggi continuano a fioccare su questa vicenda della Juventus, dello stadio, delle prospettive. Mi piace Gigi da Bergamo che scrive: ma i tifosi che non hanno voluto Stankovic non si sentono in colpa? Possibile che sbagli sempre soltanto la società? Anche questa è una riflessione che questo ascoltatore conclude con ciascuno faccia il proprio mestiere. Non è poi semplicissimo, non si può nemmeno dire che con Stankovic le cose sarebbero andate in chissà quale maniera, però è indubbio che ciascuno faccia il proprio mestiere è un buon memento, no? Per ogni tanto almeno. Allora, chiedo un attimo di pazienza a 3 ascoltatori già in linea dalla provincia di Bologna, da Trento e da Palermo. Avevo ancora un paio di domande per Luca Veronese. La prima è: mi pare che dalle tue domande e dalle sue risposte Blank sia una persona con un aplomb notevolissimo, nel senso che tu non è che non ci hai provato a provocarlo, gli hai buttato lì la quotazione della Saras di Moratti, gli hai messo Boggi, gli hai messo Giraudo, gli hai messo sul tappeto tutto quello che potevi e lui ne è sempre uscito, per iscritto almeno, ne è sempre uscito con uno slalom elegantissimo. Lui era un grande sciatore, tra l'altro, se non sbaglio. Off records, come se l'è cavata? Diciamo che arcigno nei contrasti anche. Vogliamo dire che ci assomiglia un po' a Furino dei tempi belli, sì. Che mai plateale, però duro sulla palla e mai casuale anche nel colpire duro. Quindi quando non vuole non ci riesce a... Certo, su Moratti ha detto di aver letto questa vicenda della Saras e poi ha detto però di Moratti meglio se non parlo, perché una volta ne ho parlato e non finisce più questa cosa di Inter Juve. Ha detto ci vuole comunque gente con quella passione, si è lasciato andare dicendo la passione non sempre nei manager, in chi gestisce una società, anche lo vedo nelle persone, nei dipendenti, nei direttori generali, in quello che sono, la passione non sempre paga. Mi faceva l'esempio, lui aveva diretto il torneo Roland Garros a Parigi e se dovevo dire al mio direttore generale di fare un contratto, non so, con Nadal, e questo era un appassionato di Nadal, l'avrebbe portato a Parigi spendendo chissà quanto, ma questo non era l'obiettivo. Certo. Quindi la passione entro certi limiti. E su Moggi e Giraudo lui davvero prova in tutti i modi a voltare pagina, ma sa bene che la Juve si porta dietro anche questo ricordo tristissimo per tutti i tifosi e quindi per dire ha fatto un distinguo abbastanza significativo, anche se leggero per come l'ha detto, nel senso che anche Moggi e Giraudo chiudevano i bilanci in attivo, però ha detto noi non vendiamo i grandi campioni. Ti ricorderai che Moggi e Giraudo hanno venduto Zidane con un'operazione probabilmente positiva, anche quella guardando avanti, però più di recente Buffon, quando c'erano queste voci di milioni di euro per comprarlo, lo stesso Buffon ha detto forse con la dirigenza precedente mi avrebbero già venduto. E l'idea di Blanca è quella di non vendere i campioni, per esempio, che è una cosa che i tifosi probabilmente interesserà anche nell'immediato. Certo. L'ultima questione davvero non riguarda più la Juventus, se non indirettamente, se non come chiusura di questo percorso che abbiamo fatto oggi. E cioè, è una notizia che è appena arrivata dalle agenzie. La UEFA minaccia per il prossimo futuro di escludere da tutte le competizioni europee i club fortemente indebitati. Lo ha detto il segretario generale Taylor incontrando i club professionistici inglesi e dicendo che questa potrebbe diventare l'ultima sanzione per i club indebitati. Quindi poi adesso con tutto quello che sta accadendo nel mondo credo che siamo destinati a vedere saltare per aria ben altro che qualche squadra di calcio, però mi sembra di capire che si prova perlomeno ad andare in una direzione di severità di bilanci anche a quel livello. Sarebbe anche ora, sarebbe ora, certo. Nel senso che di nuovo il progetto di Blanc può essere solido, può essere serio, ma se a vincere sono quelli che buttano i soldi lì e poi non si sa dove vanno a finire, con dei parametri che saltano da tutti i punti di vista. Ricordiamo in Champions l'anno scorso, ecco cosa aveva detto Platini a proposito, che nome aveva fatto Platini l'anno Platini scorso? Aveva accusato direttamente, un po' da francese diciamolo, anche certo, le squadre inglesi, dicendo vincono in Champions quelli che buttano i soldi, quelli che si indebitano. E in effetti è così, perché se guardiamo i parametri, non so, fra stipendi e ricavi di una società, il modello del Chelsea non si tiene in piedi, cioè non c'è, se non arriva il miliardario russo con i suoi petrodollari o petroeuro o quello che sono, non va avanti. Certo. Quindi sarebbe una buona notizia, in linea con quello che pensa la Juve, e ripeto, un progetto serio e solido che non si sa poi se nel calcio funzioni, insomma. Di serio di solito nel calcio c'è sempre stato pochino, tutto sommato, e di accordi, non parliamo dei patti di agenti uomini che fine hanno fatto, ma di accordi sovranazionali, o arrivano imposti dall'alto o non se ne parla proprio. Però è indubbio che questo monito che arriva all'UEFA è un monito abbastanza forte. Allora, grazie a Luca Veronese per questa sua lunga e dotta partecipazione, che ripeteremo tra breve, anche perché alcuni ascoltatori già ci chiedono altri argomenti, per esempio la reale situazione finanziaria della Roma. Insomma, un po' alla volta, approfittando anche di questa sosta, sta facendo una faccia Luca che non vi dico, un po' alla volta ci arriveremo. Adesso volevo dare spazio almeno a 2-3 ascoltatori prima di ascoltare poi le voci che vi abbiamo preparato per oggi. Luca dalla provincia di Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. La mia domanda era riferita alla situazione di Borgonovo. Sì. Ma volevo sapere per quale motivo una persona si riduce in questo stato, un calciatore, e i medici che responsabilità possono avere se uno va appunto a ricercare le sue condizioni attuali? È una cosa che su Borgonovo penso che abbia smesso già da 10 anni, esagero, forse meno, non lo so. No, forse anche di più. Forse anche di più, quindi si può risalire al motivo principale perché un calciatore si sia ammalato in questo modo, che non è l'unico, tra l'altro, non è l'unico. No, certo, ma è la ricerca è indietro sulla SLA, nel senso che è indubbio che il numero di calciatori che sono stati colpiti da questo morbo lasciano ampiamente pensare che... ma è anche vero che non esiste al momento alcun riscontro scientifico. Si tende ad escludere il doping, si pensa piuttosto a un eccesso, a un abuso di farmaci, ma non si escludono ipotesi delle più varie, tipo i terreni di gioco, tipo la calce sulle linee laterali, la vernice, non si riesce veramente a capire, e si cerca invece di studiare il sistema. Lo sta facendo, per esempio, il dottor Mario Merazzini, che è presidente dell'AISLA, e cioè dell'associazione che coordina le iniziative contro il male, e che ha provato a spiegarci a che punto è la ricerca in questa materia. Sentiamo. Stefano Borgonovo è un altro caso di malato di SLA, di calciatore professionista che ha avuto il coraggio di uscire allo scoperto. In effetti la ricerca dice che tra le categorie di soggetti colpiti ci sono primi calciatori, a seguire gli agricoltori e poi i saldatori. Ma vediamo sui calciatori, lo studio che è stato condotto dal professor Adriano Chiò, in collaborazione con Adriano Mora, Chiò di Torino, Mora di Pavia, hanno valutato 7.325 calciatori professionisti. In base alle statistiche si dovevano aspettare un caso di SLA, invece ne avevano individuato 8, quindi nettamente quasi 6 volte superiore alla media. Ecco, quali le cause? Sicuramente il calcio non fa venire la SLA, c'è un insieme di concause prima fra tutti una predisposizione genetica e poi i microtraumi, sicuramente gli sforzi eccessivi, l'uso o l'abuso eccessivo di farmaci antinfiammatori per la ripresa da infortuni non ancora completamente ristabiliti. Sicuramente è stato escluso il doping, perché il doping non fa venire. Il calcio e il doping non c'entrano con la SLA. La voce che interloquiva con il dottor Melazzini era quella di Nicoletta Carbone. Questo frammento, questo prezioso documento ci è stato appunto passato dagli amici e dai colleghi di Essere e Benessere, la rubrica che va in onda in mattinata. Il dottor Melazzini è malato a sua volta, ma è un medico, uno studioso e un ricercatore, sicché il suo è un parere di quelli che contano. Andiamo con ordine a questo punto della puntata. A questo punto della puntata carina, il ripasso di storia. Nicola Filippone. Sembra ieri. 8 ottobre 1977. Dopo due anni in coabitazione con Fulvio Bernardini, Enzo Bearzot fa il suo esordio da CT unico della Nazionale di Calcio Italiana. L'occasione è un amichevole a Berlino contro i campioni mondiali in carica della Germania Ovest. Finisce 2-1 per i tedeschi, che si portano avanti con Kals e raddoppiano con Rummenigge. La rete azzurra è firmata da Antognoni. L'amichevole di Berlino è il punto di partenza di un ciclo che culminerà nel trionfo mondiale del 1982, ottenuto battendo in finale proprio la Germania. Nell'amichevole d'esordio, Bearzot manda in campo 6 giocatori che 5 anni più tardi faranno parte della spedizione spagnola: Zoff, Tardelli, Gentile, Causio, Graziani e Antognoni. Magari questo è un ripasso utile non solo dal punto di vista cronologico, cioè della data, ma un ripasso utile per tutti quelli che dicono per tutti quelli che farebbero la nazionale al campionato e quindi adesso chiamerebbero chi ha giocato bene domenica e lascerebbero a casa quelli che hanno dato magari in passato, che hanno continuità e che offrono più rassicurazioni. Nicola, in linea da Trento, buongiorno. Buonasera, dottor Garanzini. Innanzitutto complimenti sul modo pacato che ha anche di fare giornalismo. Ecco, io faccio due domande e mi rendo conto che sono domande abbastanza gettonate in questo periodo, riferite alla Juventus. La prima è questa, no? Io mi chiedevo, no? Solo il futuro lo dirà, lei personalmente vede la Juventus e la famiglia Elkan legata ancora per diversi anni, oppure come si dice negli ambienti finanziari, tipo Marchionne sta spingendo con la famiglia Elkan per liberarsi di tutto quello che concerne l'ambito sportivo? Poi, ultima domanda, la saluto e l'ascolto per radio, mi chiedo, è una cosa che non capisco, come fanno squadre come l'Udinese, il Napoli stesso, a fare degli acquisti? La seconda parte, insomma, a fare degli acquisti così intelligenti e così poco onerosi, mentre invece società di maggior grido, immagino, provo a interpretare, fanno più fatica. È più facile giocare a Udine e giocare a Napoli in questa dimensione del Napoli. Napoli poi aveva lo stesso problema nei primi anni 90 o fine agli anni 80, quando era uno squadrone, cioè quando puoi permetterti di aspettare un giovane, un ragazzo, un talento, è un discorso. Quando non puoi permetterti perché hai bisogno di risultati in continuazione, il discorso cambia. La Juventus adesso ha un'eccellente batteria di giovani, perché non c'è soltanto Giovinco, ci sono Marchisio, Riceglie, o questi dimostrano di essere già pronti e maturi, oppure una squadra come la Juventus non li può aspettare, ha bisogno di risultati immediati e continui, cosa che altrove non è così indispensabile. Sentirei, tornerei un attimo perlomeno, ricordando appunto questa partita per Borgonovo di stasera al Franchi di Firenze, sentirei un frammento di Lippi a questo proposito. Ho percepito la voglia di tutti di partecipare a questa serata, di essere presenti, no? Si svolge qui, a due passi da casa nostra, e in tutti c'era la volontà di essere presenti, di far sentire forte è chiara anche la voce della nazionale in un momento in cui mi pare che ci sia una mobilitazione del calcio importante. È vero, quindi ripeto, nazionale schierata al gran completo in tribuna, mentre tutti i combattenti reduci dei tempi di Borgonovo, della Fiorentina e del Milan, in campo, prima in una partita in un tempo ufficiale e poi in un tempo un pochino più amichevole. Giovanni da Palermo, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, una considerazione veloce sulla Juventus e per sul mio. Allora, riguardo alla Juventus, ritengo che per quello che ha fatto lo scorso anno, premetto che sono un interista, per quello che ha fatto lo scorso anno non mi sembra che meriti tutte queste polemiche, anche perché ci si deve rendere conto di un cambiamento culturale che i tifosi della Juventus dovrebbero accogliere del dopo Moggi. Adesso la Juventus non è più una squadra anormale, ma è una squadra normale che si deve costruire tempo ha necessità di tempo, e non so se quello che fanno i giornali serve a costruire della serenità o è soltanto chiasso mediatico. Un'altra considerazione su Mourinho: ritengo che sia una persona intelligente, lo dico perché la scorsa settimana lei diceva c'è un abbassamento della popolarità, dell'indice di gradimento per l'intervista che ha fatto. Mi sembra che sia una battuta semplicissima, anzi la spiegazione che ha fatto sul ruolo, sul lavoro del giornalista e dell'allenatore mi sembra molto attinente e anche intelligente. Ascolto per radio. Grazie, l'ho trovata invece di rara infelicità, ancora più sorprendente proprio perché trattasi di persona intelligente, preparata e che ama la provocazione, quindi insomma un po' più di autocontrollo credo che sarebbe utile, prezioso direi. Chiasso mediatico, dice lei, sulla sì, se ne fa tanto, questo è vero, però è vero anche il discorso sulla Juventus ci porterebbe lontanissimi se davvero approfondissimo ogni aspetto e non soltanto quelli che abbiamo approfondito prima con Luca Veronese, partendo da un taglio, da un'ottica manageriale, economico, finanziario, però è indubbio che meno risorse hai da investire più devi cercare di investirle al meglio. Non si può dire che la Juventus che sia andata così quest'anno, insomma, no? Poi per carità, in buonissima fede, ci mancherebbe altro, è solo chi non fa che non sbaglia, però tra questo e lo scorso anno la percentuale di errori è stata abbastanza altina e certamente non è imputabile a Blanca, che fa l'amministratore delegato e non si occupa certamente di calcio mercato in prima persona. Tocca a Renzo da Imperia, buongiorno. Sì, grazie signor Garanzini. Il tempo è poco, credo. Qui a casa mia c'è un fracasso perché stanno facendo un lavoro, spero che non vi giunga. No. Mi limiterò a fare così i complimenti per un'intervista assolutamente sontuosa questa volta, della settimana scorsa con il signor Ballardini, l'allenatore, sì, del Palermo. È stata una mezz'ora, 20 minuti, credo, assolutamente sontuosi, ripeto, e quindi così come, per carità, sono assolutamente godibili i suoi duetti o duelli, come si può dire, con Gianni Mura quando è in trasmissione. Io vorrei che alcune trasmissioni della domenica pomeriggio o domenica sera in televisione prendessero spunto da A Tempo di Sport qui di Radio 24. Grazie. Grazie a lei, questo è un grande complimento, è una grande utopia soprattutto, più che un complimento, ma lei è molto gentile, Renzo. Sentiamo ancora una voce di Lippi, io poi terrei per domani, perché ci avviciniamo poi alla vigilia azzurra della partita di sabato, terrei per domani alcuni spunti che arrivano dal ritiro di Coverciano. Sentirei giusto che cosa ha detto Lippi a proposito di infortuni. Sono due grandi giocatori che avrebbero fatto comodissimo in queste due partite, però fa parte del gioco anche che qualche giocatore importante si infortuni. Per dire la verità, in questo periodo se ne stanno infortunati un po' troppi e questa credo che sia assolutamente una casualità, però bisogna fare di gioco forza. Il riferimento era ovviamente a Buffon e a Camoranesi, sono tanti davvero, sono è quasi una formazione intera quella che manca a Lippi per questo doppio impegno azzurro. Vedremo come se la caveranno i giovani, i rincalzi e quelli che ha convocato al posto loro. Peter Bescapè in regia, Flavio Suardi in redazione, appuntamento a domani.